Secondo appuntamento della rassegna in collaborazione tra OpenDDB e Cinema Galliera, e siamo qui per parlarne di nuovo con Andrea Paco Mariani. Ciao Paco, buongiorno, bentornato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, innanzitutto, dicevamo appunto, secondo appuntamento, questa volta in proiezione ci sarà il documentario Tango con Putin. Ti va di raccontarci un po' di che cosa parla? Sì, esatto, abbiamo domani 3 novembre al Cinema Galliera alle ore 21, avremo la seconda iniziativa di questa programmazione autunnale che abbiamo fatto insieme con un'anteprima molto particolare, un'anteprima internazionale in collaborazione con il Pordenone Doc Fest, ed è un film che appunto, a parte una visione durante il Festival di Pordenone, non è ancora arrivato in Italia e si chiama appunto Tango con Putin e, come potete già intuire dal nome, è ambientato nella Russia contemporanea. Esatto, tra l'altro ci sarà anche la regista, non so se è presente o in collegamento, parlerete con lei, discuterete con lei, ci sarà un dibattito. Esattamente, ci sarà in collegamento Skype Vera Krishevskaya, spero di averlo detto nel modo giusto, che è appunto l'autrice del film. È un film che ha, insomma, girato moltissimo all'estero, in diversi festival europei e internazionali, non da ultimo l'ITFA Film Festival di Amsterdam. Sarà appunto in collegamento con noi per discutere poi alla fine del film, dell'opera che andremo a vedere insieme. Esatto, nell'opera si parla di informazione e tra l'altro è stato girato, se non erro, prima dell'inizio della guerra, quindi discuterete anche della differenza che c'è stata prima ad ora. Sì, diciamo che è un film molto particolare per tanti aspetti, anche per come è realizzato. Infatti ci è molto piaciuto anche perché usa un linguaggio un po' ricercato e particolare rispetto a questo tipo di lavori di inchiesta, ma soprattutto è molto particolare anche la storia di Natasha Shindeva, che è la fondatrice, nel senso che lei nel 2008 fondò questa televisione che si chiamava Dot TV, la TV della pioggia dell'ultimismo, e non aveva nessun tipo di background, potremmo definire militante di qualche tipo, nel senso la sua fu un'operazione, anche se vogliamo, estremamente ingenua. Voleva creare una televisione indipendente, non per forza diciamo in contrapposizione con il regime politico russo, ma poi si è trovato in mezzo alla storia, come si dice. Ha fatto anche delle scelte questa televisione per andare ovviamente a trovarsi poi nella situazione in cui si è trovata, cioè forzata chiusura e anche di recente, negli ultimi 2 anni, di allontanamento dei fondatori di questa TV dalla Russia stessa. Però appunto è una storia molto particolare perché in realtà non nasceva con questo intento, si è trovata a cavallo degli eventi. Questo ci permette anche di avvicinarci al tema della libera informazione, dei diritti civili, in un modo un po' più particolare, se vogliamo. C'era un'altra cosa, secondo me, che era utile segnalare, per darvi delle informazioni, per esempio, su Dot TV, quella, la televisione che appunto hanno fondato questa emittente indipendente nel 2008. Inizialmente nasce come, quasi come TV di intrattenimento, in qualche maniera, comunque non c'era nessuna scelta politica particolare. In realtà, nel corso degli anni, è una televisione che ha dato molta attenzione ai diritti delle comunità LGBTQ, per esempio, che come sapete in Russia è purtroppo un tema all'ordine del giorno, e anche ai dissidenti politici russi. Giusto per darvi una panoramica della parabola che c'è stata, addirittura durante il mandato di Medvedev, il presidente Medvedev andò a visitare ufficialmente questa televisione. È stato poi nel corso degli anni, mano a mano che questa televisione si è trovata concretamente a fare controinformazione sul campo, che è stata lentamente isolata e stritolata economicamente, arrivando poi de facto a una sorta di chiusura per mancanza di fondi e ovviamente un intreccio di leggi nazionali che hanno generato questo. E oggi questa televisione esiste ancora, ma chiaramente in una forma molto indebolita, e trasmette dirette video sui canali YouTube, quindi spesso anche con un problema di diffusione vera e propria. È chiaro che siamo in un momento molto particolare. C'è un conflitto in corso, è inutile che ci giriamo intorno, ma a nostro avviso è molto importante riuscire a raccontare tutte le storie delle società civili, non solo quella di una parte e di un'altra. In questo momento per noi l'idea di prendere posizione è chiaramente prendere posizione dalla parte dei popoli, non dalla parte dei governi. E questo secondo noi è un piccolo grande esempio del contributo che il cinema può dare rispetto a questa riflessione, a questo dibattito. Assolutamente. Io Paco ti ringrazio e ricordiamo appunto anche per sostenere il progetto domani sera al Cinema Galliera alle 21, se non sbaglio. Esatto, alle 21 proiezione, poi dibattito con l'autrice in videocollegamento. Perfetto, grazie ancora Paco. Grazie a voi, a presto.